and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Com'è che era Mercole le Nespole? Sì, Mercole le Nespole, che non fa nemmeno rima. Vabbè, ma far rima con Mercole è difficile, eh? Cosa c'è? C'è Ercole, Ercole. Però la canzone lì, Lune, la fune, Marte, parla delle cose che la Rosina Bella compra al mercato. Quindi Mercole le Nespole, Giove le Ove, Ercole al mercato, cos'è? Beh, scusa, ma Rosina poteva prendersi un giorno off dal mercato e trascorrere il mercole con Ercole, no? Tito! Bravo! Vedi che Tito non è solo preciso, è pure bacchettone. Non sopporta l'idea della bella Rosina che se la spassa con Ercole. Ma Ercole chi? L'eroe? Forse, non so, il salumiere del mercato? Esatto, un Ercole qualunque proprio. Dai, Tito, su! Niente, non ce la può fare. L'idea di una ragazza indipendente che fa le capriole con chi vuole lei non riesce ad entrare nella testa di Tito. Però ha ragione Tito. Ma come ha ragione Tito? Ma dai, in questo clima orrendo da basso impero, è meglio schierarsi dalla parte delle cose chiare, limpide, pulite. Vabbè, tre aggettivi, mercato, quando ne bastava uno. Trasparenti. Quattro, cinque vuoi? Dai, dimmi un altro. Non lo so. Comunque basta con ste donnette che si vedono in TV mezze nude. Dai, Drago, è un insulto all'intelligenza, sì, tra le altre cose. Calmati, infatti le donne italiane stanno preparando una grande manifestazione per la loro dignità, poi hanno anche fatto una raccolta di firme su Repubblico, sì. Visto? Quindi insomma, si stanno muovendo. Vabbè, ma anche le donnette cosiddette sono donne, quindi non è che sono di un genere diverso. Sì, però però sono donne sfruttate dagli uomini. Ma chi? Le donnette. Ma sfruttate chi? Sì, sfruttate. Ma cioè, Drago, guarda che semmai sono loro, le donnette, che sfruttano dei ricchi incapaci di intendere e di volere e gli fanno fare su quello che vogliono. Ma tu la vedi così, quindi. Ma certo, vuoi mica mettere queste donnette vicino alle povere schiave che battono il marciapiede? Beh, ma guarda che in un certo senso anche loro sono tenute in schiavitù, no? Sì. Una bella schiavitù con l'alloggio pagato, le buste piene di soldi, l'hammer per guidare in città, l'iPhone, l'iPad, la chirurgia estetica, il centro fitness, le scarpe, perché poi le scarpe cosa sono i milioni quando puoi avere le scarpe? C'è anche un posto in regione, 9.000 euro al mese più gli extra, le scarpe. Una cosa, io penso veramente che sia un modo sbagliato questo, perché questo è una sede istituzionale. Io capisco che Drago, pubblico, ma io vedi che scarpe che ha. Ma quali scarpe? Cosa stai guardando? Guarda le scarpe. Se guardo le scarpe. E questo non va bene. Vedi, con le scarpe nuove. Cioè, capito, però. Drago, guarda le scarpe. Ma quali scarpe? Io devo vedere. Ma tira giù gli occhi. Ma ci scusi, ma io sono qua a lavorare. Come vedi, lei lavora e noi parliamo male di lei. Io stamattina sono venuto in consiglio. Ha ragione. Però belle le scarpe. Stop your feet! Bambini e responsabilità sono due concetti che apparentemente non vanno molto d'accordo. Vabbè, per fortuna. Però dai, Kappa, ci sono dei momenti, delle situazioni in cui ai bambini è richiesto di comportarsi come gli adulti. Ad esempio i casi di emergenza, non so, il malore di un parente. I bambini devono sapere che si può chiamare il 118 e soprattutto devono anche saper descrivere quello che sta succedendo. Ma poveri bambini, dove sono. Ma Drago, ma mica poveri bambini. Ma guarda che già lo fanno, tra l'altro. Il 5% delle telefonate che arrivano al 118 sono di bambini. Il fatto è che nella maggior parte dei casi gli operatori hanno difficoltà a farsi dire qual è il problema e poi l'indirizzo del luogo dove si sta verificando questa. D'accordo. E quindi? E quindi stanno cominciando in tante scuole dei corsi per insegnare ai bimbi come si parla col 118. Vabbè, no, ma ci vorrebbe un corso per quelli del 118, no? Ma sì, così sono loro che imparano come si parla a un bambino. E ora, bambini, ricreazione. Ma povero Tito, una faccia così. Tu non capisci niente di cani. Come, non capisci niente di cani. Ma supplica di portarlo fuori. È furbo. Dai, siamo alla ricreazione, portiamolo fuori. Lui crede fuori di farti pena e tu ci caschi. E ci casco sì. Perché è furbo, più è furbo, di te. È più furbo di me. Eh beh, conosce 5.000 parole, non so. Sì, 5.000. Quante sono? Più di te, sì. Vabbè, ricreazione, bambino Alberto, vieni qua. Ormai sei grandicello, devi assumerti le tue responsabilità, forza. Ma chi? Io? Sì, cosa sì, sì. Allora, tu lo sai che circa il 5% delle telefonate che arrivano al 118 arrivano da bambini. Okay, e oltretutto da bambini, la maggior parte delle volte stranieri, che quindi devono spiegarsi, non ce la fanno, sì, eccetera, eccetera. Senti già, che ansia, che angoscia che trasmetti. Ma è vero. Ma lascialo stare, ma povero bambino, ma lascia che si diverta, che giochi. 118. È un bambino, Drago, ma cosa vai a tirare fuori il 118? È importante il 118. 18. Ma ho capito, ma adesso... no, appunto, e poi cos'è sto 118? Io so contare fino a 24. Ma è un numero telefonico, bambino Alberto, un numero telefonico che devi chiamare quando c'è un'emergenza, tipo, che ne so, tuo papà che ha l'ictus. Ma Drago, ma smettila! Ma non dire ste cose nemmeno per scherzo, l'ictus. Ah, ho capito. Hai capito? Quelli è il numero che ha fatto papà quando è stato male il nonno. Ah, beh, certo. Solo che poi sono arrivati i pompieri. Vabbè, avrò sbagliato a fare il numero, perché in realtà i pompieri rispondono al 188, 188. Altro numero che non conosco. Io conto solo fino a 24. Vabbè, ma per fare un numero di telefono a tre cifre non bisogna saper contare. Basta sapere che digitando 118 fai arrivare un'ambulanza. E digitando 188 invece fai arrivare i pompieri. Quindi... ma tu devi dire 118, non devi dire 118. È come il telefono qui alla radio, no? Quando chiamano dicono 80024. Perché se dici 824 uno magari fa 824. Oppure deve fare 800.024, 80.024. Hai capito, bambino Alberto? È mica tanto. Ma è facile, bambino Alberto. Alberto, ripeto, 118 arriva l'ambulanza, 188 arrivano i pompieri, quindi, bambino brontosauro, se succede qualcosa e hai bisogno di un'ambulanza, che numero devi fare? 118. Ecco, bravo, però poi, dopo che rispondono, devi saper descrivere qual è l'emergenza. Proviamo, facciamo finta, su dai, bambino bretella, metti che tuo padre si accasci a terra senza un lamento. Tu cosa fai? Drago, smettila. Io vado in sbattimento, no? Vedi, lo mandi in sbattimento. Ma no, solo per finta. Non stiamo facendo finta. Ecco, bravo, vedi che capisce lui e tu. Allora, dunque, invece di andare in sbattimento, devi subito correre al telefono, capito? E digitare 118. Bravo, e a quel punto ti risponde un operatore. Fallo tu, capo. Fai l'operatore. Ma no, del 118. Sì, dai, allora. Allora, pronto, 118, sono K, in cosa posso esserle utile? Dicono così, no? Sì, call center. Mamino Alberto, tu devi dire qualcosa a sto punto, devi spiegare cosa è successo, dai. Pronto? Io sono il bambino Alberto. Sì. Alberto, Cioè, non Roberto, Umberto, Lamberto. Alberto. In cosa posso esserti utile, bambino abluzione? C'è qualche emergenza? Ma ho appena detto Alberto! Vabbè, dai, insomma, c'è qualche emergenza? Mio padre è caduto per terra. Ah, bene. E cosa bene? Per terra che rantola? No, dicevo bene perché sei stato bravo. Hai fatto la cosa più importante. Adesso però devi essere preciso e devi dirmi che cosa stava facendo tuo padre prima di cadere. Allora, lui era salito in piedi sulla sedia per cambiare una lampadina in salotto. Sì. E beh, a un certo punto è caduto giù. Ah, quindi è caduto dalla scala, ha battuto la testa ed è svenuto. Vabbè, te l'ho appena detto. Sì, ma può essere anche che gli sia venuto un malore mentre era sulla scala e soltanto dopo sia caduto dalla scala. E può anche darsi, cosa ne so io? Qui mi sto inventando tutto, Ah, ma allora è uno scherzo telefonico. Maleducato e incosciente. Ecco quello che sei. Ma ti abbiamo registrato, perché tutte le telefonate al 118 vengono registrate. Vabbè, ma io... E abbiamo il tuo numero. Noi sappiamo chi sei. Vabbè, noi ti veniamo a prendere. Ma io non ho fatto niente. Pronto? Pronto? Papà? Papà? Ho chiamato il 118. Bravo. Solo che hanno messo giù. Richiama. Richiama. Io richiamo, ma poi mi fanno 2000 domande e alla fine mettono giù. Pronto, 118, sono K. In cosa posso esserle utile? Sì, sono il bambino Alberto, quello di prima. Ah, bambino Albatros, basta con gli scherzi! No, ma... E niente. Papà? Papà? Papà! Ma non si muove più. È freddo al tatto. Rigido. Vuol mica dire che... Allora vuol dire che... Vuol dire che... Vuoi dire che proprio... stavolta sì, Possiamo dirlo? È morto. E ora, bambini, il sonnellino. Drago! Ma tu l'hai mai chiamato il 118? In vita mia? No, mai, per fortuna mai, no. Io una volta sì. Ho fatto uno scherzo a un mio ex amico che si era appena sposato. Gli fai sempre scherzo. Senso, no? Ho capito, sai, che ti sposi, ti fai scherzo. E no, niente, ho telefonato al 118 e ho detto che a casa del mio ex amico si erano incastrati lui e sua moglie. Ti sembra uno scherzo da fare? Vabbè, infatti ti ho detto che era un mio ex amico, no? Siamo incastrati e mandate i vostri nananananan alternativi a chiedoasilo@radio24.it. Ma solo nananananan. Vabbè, l'ho fatto un po' alla Minoli. Ah, Giovanni Minoli.